Tutta la comunità si sollevò e fece sentire la propria voce. Il popolo pianse quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè ed Aronne, e tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto. Perché il Signore ci conduce in questa terra a cadere di spada? Le nostre donne e i nostri bambini saranno un bottino. Non è forse bene per noi tornare in Egitto?» E ognuno diceva al proprio fratello: «Diamoci un capo e torniamo in Egitto». Mosè ed Aronne si prostrarono di fronte a tutta l'assemblea della comunità dei figli di Israele. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Jefunne, di quelli che avevano esplorato la terra, strapparono i propri vestiti e dissero a tutta la comunità dei figli di Israele: «La terra in cui siamo passati per esplorarla è una terra buonissima. Se il Signore ci è propizio, ci condurrà a questa terra e ce la darà. È una terra dove scorre latte e miele. Solo non ribellatevi al Signore e non temete il popolo della terra, perché è pane per noi. La loro difesa si è allontanata da loro, mentre il Signore è con noi. Non abbiate paura di loro». Tutta la comunità disse di lapidarli. Quando la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti i figli di Israele. Il Signore disse a Mosè: «Fino a quando questo popolo mi disprezzerà? Fino a quando non mi crederanno dopo tutti i segni che ho fatto in mezzo a loro? Lo colpirò di peste, lo distruggerò, e di te farò una nazione più grande e potente di lui». Mosè disse al Signore: «Gli egiziani hanno sentito che con la tua forza hai fatto uscire questo popolo di mezzo a loro, e lo hanno detto all'abitante di questa terra. Hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo, che ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nuvola sta sopra di loro, che con una colonna di nuvola cammini davanti a loro di giorno e con una colonna di fuoco di notte. Farai forse morire questo popolo come un sol uomo. Le nazioni che hanno sentito parlare della tua fama diranno: il Signore non ha potuto far venire questo popolo nella terra che gli aveva promesso con giuramento e li ha massacrati nel deserto. Ora sia magnificata la potenza del mio Signore, secondo quanto hai detto con le parole: il Signore è lento all'ira e largo in misericordia. Perdona la colpa e la trasgressione, ma non lascia impunito. Castiga la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e quarta generazione. Perdona dunque la colpa di questo popolo, nella grandezza della tua misericordia, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui». Il Signore disse: «Gli perdono, secondo la tua parola. Ma come io sono vivo e la gloria del Signore riempie tutta la terra, tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miei segni che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno tentato qui 10 volte, e non hanno ascoltato la mia voce, non vedranno la terra che ho promesso con giuramento ai loro padri, e non la vedranno tutti quelli che mi disprezzano. Il mio servo Caleb, poiché un altro spirito fu in lui e mi seguì completamente, lo farò venire nella terra nella quale era andato, e il suo seme la possederà. Gli Amaleciti e i Cananei abitano nella valle. Domani voltatevi e partite verso il deserto, per la via del Mar Rosso». Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Fino a quando ci sarà questa comunità cattiva che mormora contro di me? Ho sentito le mormorazioni dei figli di Israele contro di me. Di loro: sulla mia vita, dice il Signore, vi farò come avete detto voi stessi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto e nessuno dei vostri recensiti da 20 anni in su, voi che avete mormorato contro di me, potrà entrare nella terra per cui ho alzato la mia mano per farvi abitare, se non solo Caleb, figlio di Jefunne, e Giosuè, figlio di Nun. Condurrò in essa i vostri figli, dei quali diceste che saranno un bottino, e farò conoscere a loro la terra che avete disprezzato. i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri figli saranno pastori nel deserto per 40 anni e porteranno la vostra infedeltà, finché i vostri cadaveri siano tutti nel deserto. Secondo il numero dei giorni impiegati ad esplorare la terra, 40 giorni, ogni giorno per un anno porterete le vostre colpe per 40 anni e conoscerete la mia ostilità. Io, il Signore, ho parlato. Così farò a tutta questa comunità cattiva che si è riunita contro di me. In questo deserto finiranno e vi moriranno. Gli uomini che Mosè aveva inviato ad esplorare la terra, che erano tornati e avevano mormorato contro di lui con tutta la comunità, diffondendo il discredito sul paese, tali uomini che avevano gettato il discredito sul paese morirono di un flagello di fronte a Dio. Tra quegli uomini che erano andati ad esplorare la terra, rimasero in vita Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Jefunne. Mosè disse queste cose a tutti i figli di Israele, e il popolo se ne rattristò molto. Si alzarono di buon mattino e salirono sopra la montagna, dicendo: «Eccoci, siamo saliti nel luogo per il quale il Signore ha detto che abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l'ordine del Signore? Questo non riuscirà. Non salite, perché non c'è il Signore in mezzo a voi. Non fatevi battere di fronte ai vostri nemici, perché l'Amalecita e il Cananeo sono là davanti a voi, e cadrete di spada, perché vi siete voltati dal seguire il Signore, e il Signore non sarà con voi». Ma si ostinarono a salire sopra la montagna. L'arca dell'alleanza del Signore e Mosè non si mossero dal mezzo dell'accampamento. L'Amalecita e il Cananeo, che abitavano in quella montagna, scesero, li colpirono e li fecero a pezzi fino a Corma.